come colto il cerchio che ti circonda con mistico potere. La tua voce è dolce come il lamento dei violini nelle notti quiete. Senza parole.